scoprirai che l'energia verde fa bene anche alla bolletta. Risparmia ora con Iberdrola. Iberdrola, tutta l'energia verde che vuoi. Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. You see the go-getter, she's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in you, baby. C'è crescita! Ora l'Italia tagli il debito. Christine Lagarde, direttore del Fondo Monetario Internazionale. Bisogna approfittare di questa fase di ripresa della congiuntura mondiale. Il Sole 24 Ore, è una buona notizia. Como, festa antifascista, anche questa mi sembra una buona notizia. La Repubblica e Renzi che ha dichiarato mai con Berlusconi. Un palco di giovani senza esponenti di partito, una piazza per i diritti. Biden sbaglia su Mosca, il Corriere della Sera titola: Berlusconi, le accuse sulle fake news non sono credibili, Putin rispetta l'Italia. C'è un colloquio con Silvio Berlusconi sul Corriere della Sera. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno, buona domenica da Carlo Gabardini. Allora, beh, il Sole 24 Ore, c'è la crescita, c'è la crescita. Io ho sottolineato con l'evidenziatore solo questa parte della frase che è la buona notizia. Poi ora l'Italia tagli il debito, è l'altra parte, il solito che monito. Che non volevi leggere. No, vabbè, cioè, fa parte della notizia, naturalmente è giusto che si purtroppo fa parte aspetto, della soluzione però. In realtà, direi. Il Corriere però a centropagina anche la foto con Inter Juve e il pareggio, Juve Inter, anzi senza gol. Oggi Napoli tenta il sorpasso, la Gazzetta: l'Inter schiva i colpi della Juve, sul ring scudetto resiste la capolista. E c'era anche un fallo vedremo. Di mano in area, qualcuno così, insomma, c'era un fallo di mano in area, ma non ne parliamo. Sempre sul Corriere, per finire, il Corriere fa molto ridere un pezzo di Aldo Grasso che, avendo letto il secondo libro di Di Battista, ha scoperto che in realtà la Raggi è stata consigliata da questo soviet di Di Battista, che ha chiesto a una decina di persone, l'edicolante, il fruttivendolo, i parenti, un pensionato, e poi ha scritto a Virginia Raggi sulle Olimpiadi: nessuna esitazione, linea durissima, la stragrande maggioranza dei romani sta dalla nostra parte, cioè dei suoi 10 amici. Beh, sono abituati col sito che ce n'è meno, anche ce ne sono pochi, quindi. Ma non era Di Maio che consigliava la Raggi, vabbè. Invece la Stampa, un altro titolo, un'altra notizia. Attenzione, la NATO in campo per fermare le ingerenze russe. Sembra un titolo d'altri tempi, invece è proprio così. Gli Stati Uniti vogliono coinvolgere gli alleati, la Casa Bianca sonda anche Roma. Succede che gli Stati Uniti hanno sondato gli alleati NATO, Italia compresa, chiedendo di elaborare una strategia comune per fermare le ingerenze russe. La linea di Obama è stata condivisa anche dall'amministrazione Trump. Esatto, e tra l'altro su questa questione di cui, sì, appunto si occupano tutti, e ci si chiede se cadrà il presidente Trump, è una cosa gigantesca, però persone impensabili tra di loro sono molto d'accordo, ovvero Travaglio sul Fatto Quotidiano, che sottolinea che assolutamente queste fake news è assurdo anche solamente pensarlo, come si può pensare che dei messaggi in cirillico stiano condizionando le nostre elezioni, uguale Libero che addirittura dice le 12 balle spacciate dai cretini di sinistra, che tra l'altro sono divertenti queste balle, perché tra queste balle c'è anche il mondo è in pericolo a causa del clima. Questo secondo Libero è una balla dei cretini di sinistra. Speriamo non sia una balla invece questa, che è un'ottima notizia. Su Corriere della Sera, nella prima pagina: l'Iraq, il califfato qui non esiste più. Dopo la Siria, il premier iracheno annuncia che l'ISIS è stato sconfitto anche in Iraq. Questa è un'ottima notizia. 800 24 800 0024, numero verde già attivo, cari ascoltatori, chiamate per intervenire ma anche per indovinare un personaggio della settimana, lo diciamo subito, diamo un primo indizio. Vai con il primo, pensavo lo diciamo subito il personaggio, dicevo così è veramente troppo facile. Facciamo, va bene che corta. Ci stiamo avvicinando a Natale, però dire noi il personaggio, voi dovete solo ripeterlo. Il personaggio è alla mano, quindi pensate a un personaggio che ha una notizia legata a questa ultima settimana che vi chiederemo anche di raccontare, perché a volte uno così dice Farinetti. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, ve lo ricordo, cari ascoltatori, cerchiamo un personaggio della settimana che è alla mano, all'800 24 00 24, cominciate a chiamare. Parleremo anche, anzi preparatevi al numero verde, le vostre iniziative anti-spreco per il cibo, perché partiamo da questa notizia: in Gran Bretagna una catena di supermercati che si chiama, sembra una barzelletta ma si chiama veramente così, Co-op, che non c'entra nulla però con la Co-op. Beh, in qualche modo è una cooperativa, anche quella, perché è una cooperativa di consumatori. Sì, esatto. Venderà il cibo prossimo alla scadenza, che scade quel giorno lì nelle ultime ore, a 10 penny al pezzo, e circa quindi 10 centesimi dei nostri. Sconto veramente incredibile, quindi un'iniziativa forte, dichiarata guerra ufficialmente allo spreco alimentare. Voi come, quali sono le vostre ricette antispreco? Se volete chiamare anche solo per condividere, a me per esempio capita che tante volte non riesco, cioè c'ho lì qual... lo butto, però chiudo gli occhi, no? Perché è un momento brutto, è un momento triste. Ma certo, ognuno di capita. Noi lo vive e non c'è niente da fare. Se volete alleggerirvi lo spirito, condividerlo e magari sentire se qualche ascoltatore vi dà un suggerimento, chiamate per condividere questo momento. È sempre un dolore, ma è inutile nascondolo. Ognuno di noi butta via delle quantità pazzesche. Di solito, quando poi si fa il calcolo di quanti chili pro capite buttiamo via, sono veramente tantissimi. Buone notizie! Allora, per chi ne possiede, la stampa dà il titolo: la corsa dei bitcoin, tesoro da 400 miliardi. Quindi il bitcoin che continua a fare nuovi record. Quindi chi inizia con una buona notizia dubbia, perché cosa, questi bitcoin ce lo si chiede veramente tanto. Sono saliti in una maniera incredibile. Mi ricordo quando valevano 100 euro o dollari, che ci si diceva, insomma, vale già 100, ma adesso siamo a delle cifre veramente... Avete sentito anche dal giornale radio la scomparsa di Lando Fiorini, un grande, grandissimo esponente della canzone romana ma anche del teatro. La Francia ieri invece ha dato il suo addio a Johnny Holiday, il Corriere della Sera, addio a Johnny, stile Victor Hugo, 1 milione sugli Champs-Élysées per l'addio a Johnny Holiday, un onore tributato solo a Victor Hugo nel 1885. Ai funerali c'era anche il presidente Macron. Allora, buone notizie, cerchiamo buone notizie. Non facile, come... devo dire. Non facile. Oggi però abbiamo materiale, ve lo dico, abbiamo materiale. Dalla prima del Corriere, ve l'ho già detto, l'Iraq, il califfato qui non esiste più. Dopo l'annuncio di Putin arriva quello del premier iracheno, i seguaci di al-Baghdadi hanno perso il loro stato. Erano 40.000 combattenti nel 2014 tra Iraq e Siria. Sono, l'ultimo dato americano parla di 3.000 uomini al massimo, divisi più o meno a metà tra l'Iraq e la Siria. E quindi il premier iracheno che chiarisce, appunto, il califfo non controlla più centri abitati, località strategiche, nulla, insomma, di tutto quello che faceva prima. Controllava tasse, trafficava il petrolio, gestiva le amministrazioni pubbliche. Adesso invece sono stati, grazie a questa offensiva militare, estromessi. una buona notizia, insomma, una buona notizia anche sulla stampa, sui giovani in Italia che vogliono darsi all'agricoltura. 1500 ettari di terre incolte. In due anni, attraverso le aste online, l'agenzia del Demanio ha assegnato 1500 ettari in tutta Italia, raccogliendo tra l'altro anche 4 milioni con vendite e affitti ai giovani under 40. Quindi c'è, come spesso noi segnaliamo, anzi spesso abbiamo anche intervistato persone, c'è un ritorno all'agricoltura dei giovani che decidono di affittare o acquistare dal Demanio direttamente. A proposito di giovani che manderesti volentieri a zappare la terra, ci sono questi qua, e questa non è una buona notizia. Le bande dei sassi, ci ricorda il Corriere della Sera, contro gli autobus. Centinaia di casi a Roma, Napoli e Torino. Da nord a sud in azione vandali, rom, baby gang, per chi viene preso pene irrisorie. E infatti il magistrato Andrea Padalino ci ricorda che in questi casi l'ipotesi di reato è sempre solo quella di danneggiamento, che non comporta alcuna misura cautelare, quindi la fanno franca. Però intanto ci sono gli autisti che hanno paura quando vanno nelle depositi, nelle rimesse, quando girano di notte, perché immaginati di essere presa a sassate mentre stai guidando un autobus. E poi c'è anche una sindacalista, Michela Quintavalle, che ricorda l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Linda Meleo, davanti a un caso del genere parlò di una bravata di minorenni. Ecco, non bisogna farlo, perché sicuramente non sono bravate queste qua e si rischia la strage. Si rischia la strage, è evidente. Bisognerebbe mandarle a zappare le terre di cui sopra, sicuramente. Con un affitto maggiorato, però, perché noi parlavamo di questi straordinari bandi del Demanio, che in realtà agli under 40 concedono terre da coltivare. Una buona notizia di quelle che fa discutere, però, è questa, perché ce l'ha il Fatto Quotidiano. Auto di lusso e arredi in oro, la finanza vuol tassare due pusher. Sono stati condannati per traffico di droga e avevano avuto proventi per 50.000 euro. A quel punto il giudice, già che c'era, ci ha messo dentro anche: dovete pagare le tasse. Ma 20.000 euro. Ma com'è possibile? Le tasse su proventi illeciti è una novità straordinaria. L'avvocato dice: così si legittimano questi redditi. Però lo dice liberalizziamo le droghe leggere e avremo tutte le tasse pagate. Allora, amici animalisti all'ascolto, questa per voi dovrebbe essere una buona notizia. In vista delle prossime elezioni avrete ampia scelta di offerta politica, perché si annunciano liste sia nel centro-destra che nel centro-sinistra, ma anche nei 5 Stelle. Animalisti sfida nelle urne, scrive Repubblica. Una lista di area PD farà concorrenza a quella di Michela Vittoria Brambilla, che ha presentato ieri la sua lista. Puntiamo, ha detto la Brambilla, a superare il 3% alle politiche. Certo, a fare quella faccia. Ma no, c'è anche i gatti. Ma io sono assolutamente un gattaro, quindi sono diventato un gattaro da pochi mesi e ne sono felicissimo. Mi faceva sorridere il fatto che se si spaccano anche gli animalisti, se anche gli animalisti diventano di destra, di sinistra, di centro, e poi di centrodestra, e poi di centrosinistra, avere 14 partiti animalisti, insomma, mi sembrava un po' troppo. Poi mi sembra di nuovo un tentativo del PD di rincorrere in realtà alla destra e dire: se loro si portano via dei voti, anche noi andiamo a rosicchiare un nostro 1%. Infatti, la politica mi sembra una cosa un po' più seria. Dovrebbe essere una lista cosa un po' più seria. Del PD, giusto per dovere di cronaca, alleata al PD, nasce a Pescara, si chiama ANA, Alleanza per gli Animali. E basta, finisce qua questa storia. E hanno Renzi come premier, ANA? Non si sa ancora, vero? Non hanno ancora forse scelto. Che altro? Beh sì, no, abbiamo delle altre notizie. A proposito di animali, senti qua, il secolo XIX, maxi lascito di 350.000 euro ai cani di Monte Contessa. Qua uno ha sempre qualche dubbio su se sia effettivamente una buona notizia, però il sottotitolo ci rincuora, perché l'eredità della signora Umberta è stata divisa in due, stessa cifra anche alla Caritas, quindi la signora ha pensato è su stessa cifra che qualcuno potrebbe avere qualche cosa da dire. Comunque ovviamente anche la manifestazione a Como, la manifestazione antifascista contro le dittature e i fascismi, ci sembra una buona notizia. Adesso è il momento di fare un ripasso scolastico. Questa volta il maestro Alex Corlazzoli, con la scuola buona, ci porta all'estero. Sentite un po'. Hola Carlo, hola Alessio, la scuola buona di questa settimana ve la racconto da Santiago del Cile, da dove vi chiamo. È la Escuelita, una sorta di doposcuola pomeridiano che l'associazione Papa Giovanni XXIII ha creato qui in Pignanolén, uno dei quartieri più periferici e più difficili di questa città. In Caballero della Montagna, a Calle Caballero della Montagna, c'è questa aperta, questa progetto che dà la possibilità ai ragazzi, ai bambini anzi, di non stare sulla strada, ma di trovare un luogo dove possono studiare, dove possono creare, dove possono giocare, grazie anche a degli straordinari volontari italiani del Servizio Civile Internazionale. E qui, pensate un po', una scuola privata di Santiago del Cile ha adottato questo progetto e lo sostiene concretamente. Una bella lezione anche per le scuole italiane. Sarebbe bello che qualche scuola pubblica o privata adottasse qualche progetto di dopo scuola nelle città più difficili del nostro paese. Una bella lezione di qualcosa che si può fare anche da Santiago del Cile, l'abbiamo imparato. È grandissimo Alex Corlazzoli, che è in viaggio, beato lui, è in viaggio, però ci sta raccontando. Ci spostiamo anche all'estero, sì, le scuole di tutto il mondo. E poi questa cosa del dopo scuola è veramente importante, è bella. Io quando vado a prendere Viola da scuola il pomeriggio, mia figlia ha sempre voglia di fare qualcosa, non è mai stanca, dice ha fatto 8 ore di scuola, sarà stanca. No, certo. vuole fare. Noi che siamo stanchi, vecchi, dopo 8 ore di scuola si gioca. Non li puoi lasciare più in giro per strada, però, perché come facevamo noi, ti ricordi che passavamo ore in giro anche così allo stato brado, oggi certo. Non lo puoi più fare perché ci sono più paure, ci sono forse meno spazi, e quindi questo problema di fare qualcosa è colpa nostra, però più paura, perché noi ci lamentavamo dei nostri genitori, ma noi siamo messi molto peggio. Però è il momento di invertire il corso della settimana. Ecco un estratto delle 5 migliori buone notizie della settimana. Si può fare. Give me five. All right. Give me five. Allora, iniziamo con due piccole buone notizie. La prima è questa: l'azienda paga una vacanza ai Caraibi per i suoi 27 dipendenti in occasione del trentennale dell'attività. L'azienda si chiama Lasersoft, forse questa notizia l'avete sentita perché l'ha trattata anche Radio 24, però era troppo bella. Noi ringraziamo i dirigenti che sono i titolari Antonio Piolanti e Marco Pesaresi per questa iniziativa straordinaria. Direte, beh, è facile farsi belli, beh, insomma, trovatemela voi un'azienda che investe così tanto per portare tutti i suoi dipendenti in vacanza una settimana ai Caraibi. Bravi, complimenti. E al quarto posto una notizia da Montagnana in provincia di Padova. Bruno Zampieron della Croce Rossa ha accostato il furgone per salvare un cagnolino e il frattempo il Vista Red, che è questo meccanismo per cui ti fanno la foto e ti danno la multa, l'ha fotografato, ha scattato parecchie foto al furgone e il risultato sono stati che gli hanno tolto 6 punti dalla patente. Ma dov'è la buona notizia? È che ha fatto ricorso e il giudice di pace ha tolto questi ha ridato questi punti della patente, perché l'articolo 54 del codice penale prevede la non punizione in stato di necessità. Siamo contenti di questi punti tornati alla patente, un po' di buon senso ogni tanto trionfa anche nell'ora dei tribunali, spesso, non solo questa volta qui, questa volta in particolare. Terzo posto, siamo sul podio, le buone notizie arrivano dai mondiali di nuoto paralimpici, perché l'Italia si è comportata alla grande, alla grandissima, super egregiamente, l'orgoglio di Pancalli, un traguardo inimmaginabile. Qual è il traguardo? Siamo giunti terzi nel medagliere dietro gli Stati Uniti e la Cina. La Cina 56 medaglie, scusate, prima la Cina, seconda gli Stati Uniti con 54 medaglie e l'Italia ha ottenuto 38 medaglie. Siamo terzi al mondo nel nuoto paralimpico. Bravi, bravissimi. Grande lezione per tutti. Vai. Al secondo posto, quindi sempre sul podio, sempre l'agenzia del demanio di cui vi dicevo prima, che online hanno assegnato 1500 ettari. Adesso ci sono dei nuovi bandi, dopo i bandi di concessione gratuita destinati ai giovani, di oggi ci sono in gara 48 immobili pubblici da assegnare in affitto per 50 anni e sono quegli immobili che si trovano sulle ciclovie e sui percorsi storico-religiosi. È la seconda gara gara del progetto Valore Paese Cammini e Percorsi per assegnare appunto questi 48 immobili a chi propone un valido programma di investimento e riqualificazione per recuperare castelli, ville, masserie, edifici. Ma perché date questa notizia? Perché? Perché così potete andare sul sito. Esattamente. No, perché è bellissimo, certo. Perché ti prendi per 50 anni un posto incredibile che lo Stato ti dà in maniera agevolata se tu presenti un buon progetto, magari per farci un ristorante, un ricovero, quello che vuoi. E spesso queste notizie non hanno pubblicità, invece se andate sul sito dell'Agenzia del Demanio trovate esatto, tutto. www.agenziademanio.it. Il bando è valido fino al 16 aprile 2018. C'è tempo, ci è voluto molto tempo per arrivare a questo risultato, che è la prima notizia, quindi la migliore notizia della settimana, non potevamo non sceglierla. L'arte pizzaiola, patrimonio dell'UNESCO, ci accogliamo anche noi, se ne è parlato molto in settimana. Certo. Però erano, quanti anni è che c'è scritto, da qualche 8 anni di negoziati internazionali ci sono voluti e alla fine ce l'abbiamo fatta. Buona pizza a tutti, vai! Ciao Alessio, ciao Carlo, sono Massimo, anno 2038. Oggi per me è una giornata speciale e lo è soprattutto per mio nipote, il figlio di mia figlia. Oggi stiamo andando in discarica, una discarica speciale però, una discarica che non soltanto accoglie i vecchi materiali che non utilizziamo in più, ma che in città, nelle discariche, vengono trasformate in oggetti nuovi, grazie alle stampanti 3D e a dei polimeri, a delle plastiche speciali che abbiamo studiato proprio in questi anni. Mio nipote in particolare trasformerà il suo vecchio seggiolone, che ormai non usa più, in un bob che abbiamo disegnato poche ore fa al computer. Ecco qua il segreto per la vita felice e sostenibile nelle città del futuro, le città intelligenti del futuro. I cittadini che producono i loro prodotti direttamente nelle città, al massimo della sostenibilità e col massimo del divertimento. Vi saluto per altre notizie del futuro, ci sentiamo la settimana prossima, io adesso vado a bobbare. Ciao! Questa sarebbe una notizia che piacerebbe a Rossano Ercolini, naturalmente. Eh certo. Qua i nostri eroi delle nostre rubriche si sono incrociati tra di loro. Temporelli dal 2038 che ristruttura il bob con la stampa in 3D del nipote. Allora, perché Ercolini in realtà non si occupa di futuro, ma lui vuole proprio portare il futuro nel presente, sì. Quindi è ancora più avanti, più avanti. Allora, lo facciamo un ascoltatore veloce. Sì, dai, proviamo, vediamo. Abbiamo chi abbiamo? Moreno da Lucca. Buongiorno, benvenuto. È caduto, niente. Allora, dopo la pubblicità 800 24 00 24, cerchiamo un personaggio della settimana che è alla mano. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Dieci penny per un prodotto appena scaduto al supermercato. È il prezzo al quale la catena di supermercati Co-op inglese mette appunto i suoi prodotti, invece di toglierli dagli scaffali. Quanto valgono 10 penny, Carlo? Sei preparato? Più o meno 10 centesimi, soprattutto su queste piccole cifre, insomma, sì, va bene. Siamo 10 lì. Centesimi, sì. Siamo lì. E comunque, come dicevamo prima, la Coop non è la nostra Coop, ma è comunque una cooperativa di consumatori britannici, che in realtà ha come soci 4 milioni di persone, quindi una cosa seria, non penso è un che negozietto. Siano prodotti scaduti, ma ancora buoni. Assolutamente sì, si parla solamente di pasta, di così detti prodotti essiccati, non di prodotti che scadono. Infatti, diciamo, da consumarsi preferibilmente entro, non quelli con la data di scadenza da consumarsi entro. Ne parliamo con una persona che da tempo in Italia sta facendo la stessa battaglia, anche se in altro modo. Francesco Ardito, fondatore di Last Minute Sotto Casa. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessio, buongiorno Carlo e buongiorno a tutti. Ciao Francesco, ben ritrovato. Ciao. Ben ritrovato. Abbiamo Ciao. Raccontato quando siete partiti sì. e anche alcuni passaggi successivi. Adesso parleremo anche di quello che fate voi. Cosa ti sembra di questa notizia? Però intanto Francesco, come che ne pensi? È la mossa finale contro lo spreco di cibo. 10 penny sono pochissimi. Ma a me sembra una mossa fantastica, nel senso che è bellissima e corretta la vostra precisazione. In effetti i prodotti sono prodotti che preferibilmente entrano, quindi biscotti, patatine, pasta, tutti i prodotti che garantiscono la massima sicurezza ovviamente al consumatore. L'idea è sicuramente vincente e i dati lo dimostrano, nel senso che questa sperimentazione ha dimostrato quanti prodotti riescono a togliere dallo scaffale appunto a 10 penny. È anche bello vedere una considerazione molto sottile, cosa voglio dire la comunicazione, l'amministratore delegato del gruppo aveva per un periodo lasciato questi prodotti lì in regalo sì. e messi in regalo non venivano presi come a 10 penny, nel senso che la percezione, qui entra in gioco molte situazioni diciamo anche di attitudine mentale del consumatore, in regalo ti sembrava quasi una cosa, ecco, tra virgolette scaduta. Cioè, regalati non avevano lo stesso valore che venduti a 10 penny. Assolutamente. Venivano svalorizzati. Ma anche perché non ti metti neanche a scegliere se sono regalati. Dici, ma quindi posso buttarli tutti dentro in un sacchetto? Cioè, si rischia sì. quasi di avere ancora più spreco, che uno li prende gratuitamente, così. Li porta a casa, tanto non li ha pagati, sono pure scaduti, li butta via. Invece, questo fatto che tu te li vai a scegliere e dici. Assolutamente. Giusto. Ed entra in gioco proprio un po' l'attitudine, quando tu mi parlavi, io diciamo a livello, noi abbiamo cominciato da un po' anche a avere a che fare con i supermercati e devo dire che a mia conoscenza, anche sì. essendomi informato in questi ultimi giorni, non mi risulta che un'operazione simile sia ancora stata fatta in Italia. Ricordiamo quello che fate voi invece di Last Minute sotto casa, è una app che fa incontrare la domanda e l'offerta, no? Però in un modo originale, ce lo vuoi ricordare quello che fate voi? Sì. Sì, sì, molto volentieri, grazie. Last Minute Sotto Casa è un'iniziativa molto semplice, partita poco più di 2 anni fa. Praticamente tutti gli esercizi commerciali, siamo partiti da, e siamo ancora con loro, dai piccoli esercenti, quindi panetterie, verdurieri, macellai, gastronomie e così via, che si trovano ad avere dei piccole quantità di prodotti alimentari verso la chiusura e che stanno andando verso la scadenza e che molte volte, purtroppo, bisogna dirlo, vengono gettati. Hanno la possibilità di informare appunto tramite Last Minute Sotto Casa tutti gli utenti che hanno scaricato l'app mm-hmm. e che abitano a poca distanza dal punto vendita. In questo modo il negoziante può informare, ad esempio, la rosticceria, dire ho ancora 4 polli arrosto, sto per chiudere, vieni a prendere a metà prezzo. E in questo modo, come diciamo da tempo, win-win-win, perché certo. ci sono 3 vincitori, vince ovviamente il negoziante che riesce a incassare qualcosa e in molti casi ci testimoniano a vedere anche nuovi utenti entrare nel negozio. Vince ovviamente il cliente di Last Minute Sotto Casa perché riesce a fare la spesa al 50%, ricordo che sulla nostra piattaforma il minimo è 40, il massimo è 90, quindi sotto il 40% del prezzo ufficiale non viene esposto nessun prodotto e ovviamente vince il pianeta perché riusciamo a non far gettare via del prodotto alimentare, che è veramente un peccato. Beh, mi sembra che l'hai spiegata anche benissimo, perché è molto importante anche questo fatto che lo sconto deve essere minimo del 40, nel se senso che un volantino come esatto, tanti altri volantini. Esatto, non è semplicemente di dare una possibilità di entrare nel mercato a qualcuno che vuole dare un piccolo sconto, è proprio il fatto delle ultime ore. Tra l'altro unisce secondo me due cose, una tecnica antica che se vogliamo è quella del panettiere o di quello che ha i polli, che alle persone di fianco dice guarda mi sono avanzati 2 polli, li vuoi, quindi diciamo una roba più locale, sì. con sì. la tecnologia, cioè l'app, la questa cosa qui è molto buona perché come ben sappiamo magari nelle grandi città va a finire che abiti a 3 metri in realtà dal panettiere, però sei al 10° piano e mai ci parli nemmeno, invece improvvisamente scopri che intorno hai dei commercianti, delle attività e di persone vive che hanno lo stesso problema, che alle 5:30 dicono porca miseria, fra 1:30 chiudo, mi spiacerebbe veramente dover buttare queste mozzarelle piuttosto che qualunque ma cosa. Ma siccome le app si misurano con i download, quanti download avete? Ma noi adesso stiamo arrivando quasi a 75.000 download della nostra app, quindi un numero già interessante. Ma in quante città siete, Francesco, al momento? Allora, cioè io dov'è che posso usare la vostra app? Allora, noi siamo praticamente, grazie anche a situazioni tipo questa, la vostra, e vi ringrazio ancora, ovviamente ci ascoltano, anzi vi ascoltano per essere precisi, da Bolzano alla Sardegna, alla Sicilia, quindi è evidente che noi abbiamo queste migliaia di utenti sono sparsi in tutta Italia. Le città dove c'è maggior movimento sono Torino, Palermo, Asti, Terni, Lucca. Anzi, mi piace dire una cosa di amico Luca, negli ultimi mesi, proprio nel mese di novembre, abbiamo incontrato le amministrazioni di Bergamo, Grosseto, Verona, Forlì, e Luca è appena partita, proprio perché anche da parte dell'amministrazione, di assessore all'ambiente, assessori al commercio locali, si sta sviluppando un'attenzione particolare, ci stanno coinvolgendo, per cui presumo che già da inizio anno queste ultime ci sarà una nuova crescita. Noi facciamo... A Milano c'è, vero? Allora, Milano e Roma sono due città che ovviamente hanno un discreto movimento, sì, un movimento diciamo fisiologico, quindi legato al fatto che siete tanti, siamo ci tanti, avete ascoltato, e quindi il movimento c'è. Però noi facciamo un appello agli amministratori che ci stanno sentendo, qualcuno ci sta sicuramente sentendo, qualche sindaco, qualche assessore, qualche consigliere, chiunque, di inserire questa app nei circuiti di comunicazione, fategli un po' di pubblicità, perché avete sentito, vincono tutti, non perde nessuno, non costa niente e insomma ci guadagnano tutti, quindi è una cosa assolutamente da sponsorizzare. Vai Francesco. Adesso ancora un attimo, tornando anche al discorso, sì, di Coop East of England, della situazione del, sì, grande successo che ha avuto mettere il prodotto al 10%, cioè scusate, al 10 centesimi, è testimoniato. Noi abbiamo delle esperienze qua su Torino da due realtà che per varie ragioni si sono trovate proprio in quella condizione. Uno è un peretto, un negozio storico alle porte di Michelino dal 1930, che ogni tanto, quando ha veramente dei prodotti, lui li sconta dell'80%, e succede che ovviamente, dice, questi prodotti finiscono, quindi lo sconto forte. Adesso la più recente, mi piace anche dirla perché è proprio molto etica, i giovani soci di Pour Manger, che è una catena che fa patate farcite, il titolare, i giovani soci hanno detto: noi ci ritroviamo proprio perché abbiamo un grande, grande smercio di queste patate, avere delle patate pronte, già cotte, solo da farcire a casa, non vogliamo buttare, non vogliamo farci un euro sopra. Ed è partita questa iniziativa per cui loro, ripeto, il nostro limite è che lo sconto massimo è 90, finito quello, proprio per non gettare quelle già pronte, le mettono a 90, praticamente con 5-10 centesimi ti porti a casa la patata solo da scaldare e farcire a casa, e stanno andando a ruba. Quindi qui non è un'operazione appunto ovviamente per fare del business, ma è proprio per non sprecare il cibo. Grazie Francesco Ardito, Last Minute sotto casa. Grazie mille. Scaricate la app, mi raccomando, la notizia a cui siamo partiti, prodotti alimentari venduti a 10 penny nei supermercati inglesi, una ricetta antispreco. Voi cosa fate all'800 24 00 24, quando avete prodotti vicini alla scadenza o scaduti? Quali sono le vostre ricette? Io per esempio faccio il minestrone, butto tutto dentro e poi mi fanno anche un sacco di complimenti, perché il minestrone piace, no? Piace, certo, a tutti. E la ricetta del minestrone è la varietà, quindi quando tu hai un sacco di roba butti dentro, sembra... Ma io compro il minestrone già nel barattolo, e quindi semmai è quando mi scade il minestrone cosa faccio? Vi aspettiamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. The newspapers shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion. E adesso ci colleghiamo con Oslo, con la città di Oslo. Direte perché, per fare che cosa? Oggi a Oslo succede una cosa importantissima. Per andare a prendere il Nobel. Nobel per la pace, il Nobel per la pace, che sapete è stato assegnato alla campagna per l'abolizione delle armi nucleari. È una rete internazionale, c'è anche un italiano che sarà tra quelli che riceveranno il premio Nobel. Con noi Francesco Vignarca, coordinatore Rete Italiana per il Disarmo. Ciao Francesco. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come funziona la cerimonia? Cioè, proprio vi chiameranno tutti o ci sarà solo una mini delegazione della delegazione a salire su? No, noi saremo rappresentanti di questa rete internazionale. Io, sì, in particolare appunto rappresenterò Rete Italiana Disarmo e Senza Atomica. Siamo anche, non ci sono solo io delle nostre reti qui in Italia, però alla cerimonia, alla presenza nella City Hall di Oslo, sì, saremo una delegazione, ma il ritiro vero con anche due discorsi verrà fatto dalla nostra direttrice esecutiva internazionale, Beatrice Finn. Certo. E soprattutto, e questa è una decisione che abbiamo preso e ci pare importante, da Setsuko Turlov, che è una delle poche ancora superstiti di Hiroshima e Nagasaki in vita, che aveva 12 anni quando è scoppiata la bomba atomica a Hiroshima, e abbiamo deciso che fosse anche lei a ritirare il premio, perché la nostra azione ovviamente onora e supporta quello che loro fanno da oltre 70 anni, cioè chiedere l'abolizione delle armi nucleari. Verissimo. E tra l'altro lo fanno anche semplicemente mostrando il proprio corpo con la loro presenza. Sono superstiti di Hiroshima, e quindi direi che mi sembra un gesto veramente perfetto, e anche anche politicamente importante il fatto di far ritirare il premio Nobel da una di queste superstiti. Ho detto che vai come un missile, Francesco, parlando, però forse non era diciamo la metafora più adatta in questo caso. Disarmista non violento, diciamo che non usa quelle metafore, però fa niente, finché sono missili di parole, anche il linguaggio, come un missile nucleare volevamo dire. Anche il linguaggio è pieno di queste cose qua. Parliamo della campagna, perché questa è una campagna importante, c'è un trattato per la messa al bando delle armi nucleari che è stato approvato dall'ONU, firmato da diversi stati, credo che siamo arrivati intorno a una cinquantina, non dall'Italia, poi mi direi se ho detto giusto o sbagliato, ratificato però in realtà praticamente da nessuno, a parte il Vaticano, la Thailandia e la Guyana, giusto? Sì, poi settimana scorsa anche il Messico ha votato la ratifica e dovrà depositare lo strumento di ratifica alle Nazioni Unite a breve. Certamente ci vuole un po' di tempo, già noi siamo soddisfattissimi di quello che è successo quest'anno con il voto alle Nazioni Unite lo scorso 7 luglio ed eravamo presenti anche lì e poi parte il processo. Ovviamente è più facile per il Vaticano, essendo monarchia assoluta, ratificare perché basta che firma il Papa, gli altri paesi devono avere un voto in Parlamento. Però il processo inizia e proprio da oggi stiamo lanciando questa idea che in 1000 giorni vogliamo il trattato in vigore. Bello. Senti, ma ci dici qualcosa sulla Corea del Nord? Nord Corea, che cosa sta succedendo? Visto che parliamo di disarmo, c'è poco da fare. Ultimamente la vediamo spesso. Però ce lo devi dire in 30 secondi perché poi chiudiamo, c'è il GR. La Nord Corea è la dimostrazione che le armi nucleari non garantiscono la sicurezza. Se tu continui a dire che la sicurezza è basata sui missili nucleari, poi c'è qualcuno che vuole costruire e usarli. Quindi l'unica sicurezza vera sulle armi nucleari è che siano veramente cancellate dalla faccia della terra. Mi hai convinto. Bravissimo. A me mi hai convinto. Non conto un tuo, mi hai convinto. Io ringrazio Francesco Vignarca. Grazie. Un saluto ad Oslo. Voglio però mandare un saluto anche a Padre Solalinde. Te lo ricordi, lo abbiamo ospitato qua. Era candidato anche lui al Nobel per la pace, perseguitato dai Narcos per le sue iniziative di aiuto ai poveri del Messico e ai migranti. Non ha vinto, ma gli mandiamo comunque un grande abbraccio. 800 24 00 24. Ci sentiamo dopo il GR con le vostre ricette antispreco e con un personaggio della settimana che è alla mano. Il segnale orario vi è offerto da Rive, rassegna di enologia e viticoltura, 12-14 dicembre, Pordenone Fiere. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ehi, ho bisogno almeno di un motivo che mi faccia stare bene. Sono stufo dei drammi in tele, delle lamentele, delle stare in depre, del nero lutto di chi non ha niente a parte avere tutto, delle sere chiuso per la serie, culto della serie, chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi e sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi che diventano ferventi nazi, fanno il G8 nei bar col biscotto e il cherry muffin, sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti e di Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17 sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Marielle Ventre che mi faccia star bene sempre. Allora, cosa è successo nel mondo? Salutiamo Caparezza, bellissimo, salutiamo questo pezzo, Caparezza, fantastico. Che ho incontrato mentre lavoravo con Mika stasera a casa Mika, è veramente un grande artista. Bene, bello, bei momenti. Allora, anche la Francia ha il suo castello di San Mezzano. Vi ricordate la storia? Avevamo parlato moltissimo. Ma anzi, certo. Anzi, al contrario, perché loro sono riusciti nell'impresa con il castello di Le Motte-Chandonnier nell'ovest della Francia. È stato salvato grazie a un crowdfunding con 7.400 donatori che sono i neo proprietari a questo punto del castello. Hanno raccolto 500.000 euro, questo gioiello del XIII secolo che era di proprietario in proprietario quasi in stato di abbandono, e sono riusciti a salvarlo. La campagna si chiama D'Artagnan, prendiamo esempio. Esatto. Perché qua un nome non a caso, e tra l'altro, se non ho capito male, gli servono ancora soldi, quindi è ancora aperta quella campagna di crowdfunding. Si può ancora diventare proprietari insieme agli altri 7.400, perché cercano ancora 500.000 euro. Ma a proposito di notizie salvifiche, un'altra notizia è che YouTube intensifica gli sforzi contro il linguaggio d'odio e i contenuti estremisti, ne abbiamo parlato spesso, e annuncia che ci saranno più revisori umani. Saranno anche dei revisori umani che in realtà dovranno addestrare invece dei revisori computerizzati, però a far bene il loro lavoro. Di fatto assumono un bel po' di gente, se esatto, ho capito bene. Esatto, e hanno promesso di portare a oltre 10.000 nel 2018 il numero totale delle persone che in Google lavorano per indirizzare i contenuti che potrebbero violare le nostre norme. L'obiettivo è rimanere un passo avanti rispetto ai malintenzionati. Gianni da Milano, buongiorno, benvenuto. Tutti voi. Buongiorno. Ciao Gianni, su cosa volevi intervenire? Volevo intervenire sul patrimonio dell'UNESCO per la pizza, perché più a mano di così credo ci sia poche cose da fare. Il personaggio della settimana che abbiamo detto è alla mano, secondo te è la pizza che è stata più alla mano di così, certo, giusto, che si fa con le mani. E poi è un cibo molto semplice, quindi è perfetta la risposta. Anche se non era il personaggio che abbiamo scelto, ma ti ringraziamo di aver ricordato anche la notizia della pizza. Marco da Padova, vai. Secondo me il personaggio del giorno della settimana potrebbe essere Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, notizia, vediamo. Perché vincerà il quinto pallone d'oro, quindi sì. 5 sono le dita di una mano, o anche in Spagna quando fai 5 gol fai la manita. Giusto, giusto. Ma non l'ha già vinto? L'ha già vinto? O hai detto lo vincerà? È stato nominato e deve ricevere il premio? Ufficialmente lo riceverà, sì, sì. Certo, pensavo che fosse legato al suo stipendio, che ho visto che non è alla mano, però invece con la tua spiegazione era tutto perfetto, ma non è il personaggio che avevamo scelto. Eccolo qua, infatti non era lui. Però, la regia però, pronta, fa la trombetta della sconfitta. Vai, diamo un altro indizio a questo punto, io direi, possiamo darlo un indizio per agevolare i nostri ascoltatori. Sì. L'indizio è che è un personaggio tecnologico. Quindi alla mano e tecnologico. Pensate un po', non è difficile questo personaggio qua, secondo me, con questi due indizi. 800 24 00 24. Oggi anche come controllori dei fatti, vi vogliamo, il fatto che vogliamo che controllare è lo spreco di cibo. Come fate? Avete delle ricette antispreco? Oppure se volete semplicemente condividere con noi quel momento triste nel quale bisogna rassegnarsi al fatto che bisogna buttare nei rifiuti qualche cosa che non è nato per finire nei rifiuti. Carla da Torino, benvenuta. Buongiorno. Domenica. Altrettanto. Allora, sentite, io non so se posso fare il nome di questo supermercato, ma è un supermercato grosso. Posso farlo il nome? Ma sì, lo faccia. Allora, è Carrefour. Sì. La Carrefour, 3 giorni prima della scadenza, mette dai polli alla carne, alla mozzarella, a tutto al 50%. Sì. Al 50, ora, bene. Al 50, la roba, carne, polli e tutto, non vanno fuori perché li metti nel congelatore e fermano la scadenza. Tu partecipi qualche volta, Carla, a queste offerte? Allora io vado, tutti i giorni, ieri sono andata, su 90 euro di spesa, ho riempito il congelatore, il frigo e tutto, ne ho spesi 45. Brava. Perché lei prende solo... Prende solo i prodotti in scadenza, non ancora scaduti, perché giustamente lei dice io li metto nel freezer e blocco l'invecchiamento. Dirò un'altra cosa, che siccome gli italiani mi vedono, le signore, e mi guardano di brutto vedendo che io prendo la roba di scarto, cioè non c'è ancora la mentalità in Italia che la roba col 50%, anche la roba sotto vuoto spinto, sotto vuoto proprio, dura ancora 3 mesi, certo, anche se in scadenza, perché la scadenza sono obbligati. Ma io direi, certo, il contrario, Carla, e ti ringrazio per aver chiamato, che chi fa quello che fai tu in realtà fa, volendo usare una parola così, è una figata, cioè fai una cosa bella, perché fai una cosa, come ci ha ricordato prima Ardito, che è buona anche per, non solo per te che risparmi, ma per tutti noi che non buttiamo via e non sprechiamo, per l'ambiente. Quindi, e soprattutto non sono comportamento... prodotti di scarto, nel senso che, esatto, se mancano ancora 3 giorni, per 3 giorni buono, sono prodotti identici a tutti gli altri. Assolutamente, assolutamente. Lucio dalla provincia di Bergamo. E poi c'è Gianni su Facebook, vi voglio ricordare anche questo, che ci scrive che, e questa fa ridere, perché lui dice: io non spreco mai il cibo, non lo butto mai via, lo do alle mie galline che poi mi ripagano con le loro uova. Giusto. Beato te che c'hai le uova, però in effetti... Che c'hai le galline, direi più, che le sì, uova. Sì, scusa, che c'hai le galline e poi c'hai anche le uova, certamente. Però chi ha gli animali in effetti lo sa, finisce così, che non butti mai via nulla, per cui il ciclo naturale, però soltanto chi sta in campagna può fare. Stavo dicendo, io gli do al mio gatto, non è vero, perché al gatto ormai si compra invece dei prodotti lussuosissimi, che costano molto più di quello che mangio io. Non va così, non va. Lucio da Bergamo, vai. Buongiorno ragazzi, io ho una buona notizia da darvi. Ottimo. Riguardo dello spreco alimentare. Io faccio l'educatore in una comunità di persone disabili. Sì. E partecipiamo portando avanti un progetto che si chiama Legami di Pane. All'interno di questo progetto ci occupiamo di ritirare dai punti della grande distribuzione prodotti in scadenza, sì, che poi vengono smistati e distribuiti a delle famiglie in difficoltà. Tutto bene. Questo grazie alle segnalazioni chiaramente del servizio sociale della nostra zona e alla collaborazione dei nostri ragazzi della comunità. Ma è perfetto, ma è difficile questo, perché a volte credo che in Italia in realtà è stata fatta una legge per facilitare. È stata fatta un anno fa. Però spesso che... gli operatori di questo settore si lamentano delle difficoltà di prendere però... i prodotti dalla grande distribuzione e reinserirli in una distribuzione umanitaria. Visto che abbiamo l'opportunità di parlare con te, Lucio, siccome questa legge è stata approvata un anno fa e abbiamo dato notizia che c'è già un bilancio, c'è un aumento delle donazioni del 20% di quel cibo che poi voi andate a distribuire. Ti risulta? È vero che la legge è servita o, come diceva Carlo, queste difficoltà ci sono ancora? Allora, ad oggi ci vuole sicuramente una certa disponibilità, una certa predisposizione del punto della grande distribuzione, sì, a donare i prodotti, perché ci sono grandi aziende che invece non adottano questo tipo di politica. Poi ci sono chiaramente degli adempimenti burocratici da compilare, le classiche, sì, scartoffie. Il progetto va avanti da 3 anni e sicuramente sono aumentate sia le disponibilità della grande distribuzione, al tempo stesso però sono aumentati i casi di richiesta, di difficoltà. Sì, di richiesta, certo. Va bene, grazie Lucio, grazie per averci dato anche questa notizia, in qualche modo anche confermato che questo movimento, magari faticosamente, ma sta crescendo. 800 24 00 24, ripetiamo che cerchiamo un personaggio che è alla mano ma è anche tecnologico. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ok, ok, ok, ok. Woo! I wanna try to make her move, but everything feels wrong. I want to fight, she's always trying to make me know she's strong. She leaves a plastic case and all the steaming dress she buys. She bids you go by here and you look fine, you look fine. Ok, ok, ok, ok. E adesso parliamo ancora di cibo, con uno chef che torna a trovarci, uno chef però dall'anima molto sociale. Non so nemmeno se vuole farsi chiamare chef. Chef Rubio, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Potete chiamarmi come preferite, Rubio. Ecco, perché non mi ricordo Rubio, Gabriele, Coso, no. Come ti chiami? Non ti dà fastidio la parola chef, però, perché ma mica me ne, non devo vergognarmi, no. No, direi di no, direi di no. Poi no. In questo cuoco, momento chef è equivale a dire principe. Sì, più o meno. Sì, vabbè, comunque sì, è meglio dire cuoco perché siamo tutti cuochi. Poi dopo chef è molto relativa la cosa. Allora, hai sentito la notizia da cui siamo partiti questa mattina, la notizia di questi supermercati inglesi che mettono i prodotti vicini alla scadenza a 10 penny, cioè praticamente regalati. Una cosa del genere in Italia non si è ancora vista, ci sono delle scontistiche, delle cose. Però insomma, che cosa ne pensi? Noi in Italia stiamo lavorando. C'è una grossa civiltà e un senso civico e si sta sviluppando in tutto il mondo per quanto riguarda sicuramente l'attenzione sul cibo, sulle persone che magari non se la possono permettere e sullo spreco che danneggia l'ambiente. Questi passi possono essere d'esempio e poi venire emulati anche nello stivale non è che farebbero un soldo di danno, insomma, cioè, ci sono persone che veramente non arrivano a fine certo. mese e non possono permettersi cibo, questo permetterebbe loro pure di poter avere cibo per più di qualche giorno per la propria famiglia e impattare un po' di meno sullo spreco che alla fine è costante del perché insomma è vero che a vedere anche i programmi di voi chef che fate le cose insomma, ovunque a qualunque ora è veramente un paradosso il cibo, dove ce n'è tanto e a volte troppo perché si spreca, lo sappiamo, e dove ce n'è troppo poco. Voglio però ricordare, ma gli avanzi delle trasmissioni dove vanno? Esiste un posto nelle mie trasmissioni che non c'entrano nulla con quelle le tue no, infatti parlando, non c'era nessuno spreco, finiva tutto nello stomaco degli interpreti, cioè, molto bene, molto vero, bene. Tu, tra l'altro, in tema di spreco, hai fatto un albero di Natale con materiali riciclati. Non so se è uno spoiler, perché poi la puntata è uno sporco Natale, uno sporco lavoro, uno sporco Natale. Andrà in onda il 18 dicembre su D-Max, giusto? Sì, quello è un esempio che avevo provato a spingere per la biennale, ma mi è stato bocciato. Allora ho detto, vabbè, fallo a testaccio. Che non me lo bocciano. No, semplicemente abbiamo fatto delle registrazioni per il trailer della puntata speciale di Natale e nella stessa giornata abbiamo recuperato del materiale per poter fare un albero che potesse simboleggiare il fatto di usare qualsiasi cosa pur di unirsi in un unico spirito natalizio, che non è quello di fare i regali ma comunque di volersi più bene, e volersi più bene vuol dire anche recuperare il materiale che potrebbe essere bruciato, incenerito, per farlo rivivere con una seconda certo. vita. Senti, prima di commentare con te altre tue iniziative, che tu sei veramente è bello un personaggio della TV, un personaggio noto che fa sinceramente delle iniziative a volte anche sorprendenti, come ho detto prima, lo chef dall'anima sociale. Però ci sono due notizie che voglio chiederti di commentare. Sì. Una è questa. Allora, il kebab, non so se tu hai mai fatto una puntata su questo cibo in particolare. Ho fatto una puntata sulla comunità fantastica marocchina che vive a Torino, che oltre a insomma essere criticata sarebbe sì. Osannata per il mantenimento della tradizione che ha portato avanti anche sul nostro territorio e ci fa vivere delle esperienze incredibili. È vero, la parola tradizione è molto bella in questo campo, però c'è una notizia: la Commissione europea della salute del Parlamento europeo pare che abbia respinto la proposta di portare avanti le proroghe sulla questione dei fosfati. Cioè, i fosfati per conservare i cibi, come nel caso delle salsicce e del kebab, è ammesso, però i fosfati non fanno bene alla salute, quindi sembra che l'Europa voglia dire stop a questo. Sarebbe come dire la fine del kebab e anche altri. Di altri insaccati conservati in quel modo lì. Che ne pensi? Ma io penso che si debba un attimino rallentare tutto questa macchina e porsi delle domande, porsi delle reali domande su cosa possa far veramente male e cosa possa fare del bene. Sicuramente non fa bene costruire una Disneyland del cibo vicino a un inceneritore a Bologna, come non fa bene taroccare della roba e spacciarla per tale sotto il nome del Made in Italy. Tante cose non vanno bene, ma se sono rimpinguate con dei soldi vengono messe a tacere e chi ne fa le spese sono solamente i consumatori. No, ma anche le piccole botteghe, i piccoli imprenditori. Quindi se dobbiamo fare di tutta un'erba un fascio e demonizzare il kebab, facciamolo, ma non sarà questa la soluzione. Quindi cioè, tu dici demonizzare il kebab in favore di strutture molto più grandi è tipo... spostare l'attenzione su una situazione che non ha mai ucciso nessuno e mai ucciderà nessuno, mentre ci sono delle persone molto più potenti che si possono permettere di fare degli abomini sotto il nome del Made in Italy, però nessuno li crema, anzi vengono chiamati filantropi. Beh, quindi secondo te il problema è più ampio di che non il singolo prodotto, in questo caso il kebab. Sono d'accordo, il problema è ampio, bisogna sicuramente affrontarlo tutto da tanti punti di vista, e noi chiediamo a voi che ci state dentro di aiutarci a capire dove stanno le buone notizie. Per esempio, questa è una notizia, un'altra notizia, un si può fare, no? C'è stato l'edizione del forum dell'alimentazione, Forum Barilla, dove si è parlato, per esempio, la settimana scorsa a Milano, tanti scienziati, tanti esponenti di questa cosa della carne in provetta, cioè carne che nasce da una cultura di cellule animali, quindi carne senza animali. È una cosa che può anche spaventare, a me personalmente mi spaventa, però in effetti, cioè, può essere una soluzione. La vera domanda da farti intanto è siccome tu hai assaggiato veramente le peggio e le meglio cose di tutto il mondo, e se tu l'hai mai assaggiata questa carne in provetta? Per poterne parlare sicuramente a livello concettuale possiamo spenderci tante parole adesso. Per quanto riguarda il gusto e la qualità, possiamo solo aspettare il momento che ci propineranno questo tipo di alimento. Certo. Non posso dirti entusiasta di questa cosa, ma se uno la guarda con l'animo disincantato e sognatore, può pensare che questa cosa possa risolvere tante problematiche come la fame nel mondo, ma questo lo sappiamo già che non avverrà, perché verranno utilizzate per beceri motivi, per altre cose che solo l'uomo riesce a fare. Ma non essere così pessimista, chef Rubio, se no ci butti giù. Non è detto, nel senso che... No, io dico sarebbe bello, speriamo che non arrivare a quell'uso che sarà semplicemente la sostituzione della proteina animale, cioè un business, semplicemente un business. Esattamente. Però potrebbe essere un business, senza più ammazzare gli animali, nel senso che in teoria non ci sarà più quella necessità. Ovviamente, intanto ricordiamo, in questo momento un chilo di carne in provetta costa 24.000 euro, quindi non è esattamente il cibo perfetto per Natale. Adesso sono riusciti a portarlo, mi sembra, a 8.000 e contano di arrivare a un prezzo concorrenziale entro il 2021. Però io ci chiedevamo se è una cosa che ha un senso o se è una follia. Ecco. No, è una follia. Se parliamo di sprechi, di non uccidere animali, basterebbe semplicemente rallentare tutto il sistema capitalistico e consumistico che stiamo vivendo adesso e arrivare consumare la carne consapevolmente. Su questo sono d'accordo anch'io. Si ammazzava una bestia all'anno e con una bestia ci si faceva tutto. E si usava tutto. E adesso erano cereali e verdure. Però siamo in 7 miliardi, forse... dovremmo smettere di pubblicizzare questo aumento demografico. È un problema tutto tondo a cui dovremmo chiedere aiuto pure alla Chiesa, tante cose, invece di smettere di fare degli spot. Stiamo andando sui preservativi? Se vuoi finiamo anche lì, però va benissimo. Però ha ragione Rubio. Io ricordo quando i miei padri, mio zio ammazzavano il maiale a gennaio, e lui con cura tagliava tutti i pezzi, non buttava via niente, c'era una distesa di pezzi diversissimi, cosa che adesso a guardarli anche solo da lontano molti si spaventano. Invece era un consumo consapevole della carne dell'animale, e Rubio lo sa perché ha fatto i suoi programmi proprio con questi cibi. Io sono della parrocchia che dice che siamo in troppi, però non è che possiamo andare in giro e professare la sterilizzazione per le persone che fanno del male alle altre. Direi di no. Possiamo dire di avere delle situazioni più consapevoli in famiglia, e soprattutto di rispettare non solo l'uomo ma anche gli animali e l'ambiente. Io ricordo agli ascoltatori l'800 24 00 24, che aspettiamo, ne abbiamo sentite alcune, le vostre ricette antispreco, che cosa fate la cena con gli amici, portate in chiesa, fate il minestrone quando vi avanzano le cose che sono in scadenza, perché oggi siamo partiti dalla notizia di cibi dati a 10 penny nei supermercati inglesi. cibi scaduti in questo caso. Sta per decollare anche un tuo e-commerce, Chef Rubio. Chi l'avrebbe detto che ti lanci nell'e-commerce? Però anche in questo caso sono prodotti dall'anima sociale tante volte, cose che hai fatto per esempio con i carcerati. Ci vuoi raccontare anche questa notizia? Allora, sì, oggi inauguro l'e-commerce sul mio sito, e è semplicemente una piccola sessione che man mano verrà aggiornata, rinfoltita, sgrassata delle offerte. Ma è da oggi o da domani? Da oggi, da lunedì, diciamo. Ah, esatto. Però credo che sia ancora in fase di ristrutturazione, domani è pronto. Perfetto. E 2000 pezzi di un grembiule che racconta quello che sono io, perché abbiamo fatto una grafica particolare che mi racconta, e tutte quelle cose che io andrò a vendere saranno spesso un racconto che racconta a me, ma anche le persone che mi hanno stimolato, perché è nato anche grazie a delle richieste di tante persone. E come dicevi te, inseriremo nel corso del tempo delle collaborazioni con delle realtà più o meno fortunate, per dargli visibilità e riuscire anche a dare dei proventi o parte dei proventi alle persone che ci aiutano. Quindi è una cosa collettiva e che si sta pian piano delineando per dare un'identità a quello che sarà poi non solo il sottoscritto, ma il prodotto che vorrà il cliente stesso. Grazie Rubio, buona grazie domenica. Grazie Rubio. Ciao, grazie per essere stato con noi. E allora vogliamo chiedere anche che cosa faceva per Natale, che cosa avrebbe cucinato, ma insomma c'è tutto nel suo speciale, è uno sporco Natale. E poi abbiamo tempo per arrivare a Natale per esatto. prepararci qualche ricettina interessante. Giusto. Di quelle antispreco, per esempio. Adriana dalla provincia di Milano, vai. Adriana? Sì? Tocca sono a te. Qua. Sì. Prego, anche tocca noi. Siamo tutti qua. Cosa volevi dirci, Adriana? Allora, buongiorno. Io volevo dire che secondo me il personaggio misterioso è la Bitcoin. Sì, giusto, cioè giusto, perché questa se ne risposta parla perché molto in sì. questi giorni, e mi sembra che abbiano detto anche che emetteranno degli strumenti finanziari, quindi così mi è venuto in mente questo. È alla mano con i soldi. Ah, però non è tanto alla mano, perché è solamente elettronico il Bitcoin. È elettronico, però insomma, per accedere devo usare la manella sul computer. Cioè, Adriana sta cercando di difendersi. Sto cercando di un ottimo avvocato. Si arrampica sugli specchi, Adriana. La mano ci poteva entrare, ma non era questa la risposta. Non era la risposta, ma siamo contenti di aver ricordato la notizia di questa settimana, che ovviamente è la corsa di Bitcoin, che è come sulla prima pagina della stampa di oggi si dice che è un tesoro che vale 400 miliardi. 800 24 00 24, abbiamo anche Antonietta che chiama da Bolzano. Vai Antonietta. Volevo rispondere, appunto, secondo me il personaggio è quel chirurgo che sta che opera nonostante sia tutto imbragato in quella struttura tecnologica che gli permette di stare in piedi. L'esoscheletro, l'esoscheletro che grazie, esatto, grazie esatto, al quale l'esoscheletro, esattamente, sì. Non potevo aiutarla finché non finiva di dare volevamo la risposta, vedere se arrivava a parlare giusto. La risposta è precisissima. Sono un po' emozionata. Complimenti Antonietta, complimenti, è una notizia incredibile. Ha vinto i due biglietti. Sì, però giusto? Sì, Clint, io volevo dire una cosa. Sì, io sono di Bolzano, di conseguenza ho difficoltà ad usufruire di questi biglietti. Li posso dare a mia nipote che li sta può dare a chiunque, Antonietta? A ma certo, possiamo, ma certo che sì. Possiamo concordare anche un premio diverso con il nostro centralino, il marketing. Possiamo farle un viaggio a Vienna, che ne so. No, sto scherzando. No, va bene, i due biglietti li può dare tranquillamente a chi gli pare. Mi stanno bene i biglietti. Va bene, Antonietta. Però poi li cederò a mia nipote che sta facendo uno stage a Milano, lavorativo. Va benissimo, puoi farci quello che ti pare. I biglietti non sono nominali, non sono nominali, quindi va bene. Grazie Antonietta, complimenti. Questo era il nostro personaggio della settimana, il chirurgo che dopo essere divenuto paraplegico per via di un incidente che lo ha coinvolto, dove poi è stato curato tra l'altro nel pronto soccorso del suo stesso ospedale, una storia incredibile, non si è arreso, continua a lavorare, a operare, e per le operazioni più complicate usa questo esoscheletro. Una storia incredibile che è uscita questa settimana grazie al Corriere, bisogna dirlo. Carlo, che sulle buone notizie ci dà una mano, eh? Perché c'è anche un inserto settimanale, bravi. Tra poco abbiamo una notizia bellissima, che è la storia di un personaggio, un politico italiano che è stato premiato in Europa come migliore innovatore nella politica, e quindi ci abbiamo da imparare qualche cosa. Però sono le 9.34, che facciamo? Ci arrendiamo o rilanciamo col personaggio? Proviamo a fare un altro personaggio, un secondo della, personaggio della vuoi negli ultimi 20 punto. Minuti? Sì, dai, vediamo se, va vediamo bene, se va bene. Regaliamo altri biglietti. Io do il primo indizio: questo personaggio ha avuto due fasi. Ha avuto due fasi, quindi pensate agli ultimi 7 giorni, una notizia. E a qualcuno che abbia avuto due fasi. 800 24 00 24. Da poco conosciamo un personaggio straordinario. Vai. Si può fare cronache da un paese migliore. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Abbiamo scelto un incipit incredibile che ci dà la carica per presentarlo. The winner is Alessio Ciacci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Grande enfasi per presentare Alessio Ciacci. Direte, molti di voi diranno, chi non lo conosce, ma chi è Alessio Ciacci? Ma Alessio adesso Ciacci, noi ve lo spieghiamo. È un personaggio coi controfiocchi, diciamo così. Allora, vincitore del premio The Innovation in Politics Award di una fondazione europea che ti ha premiato proprio pochi giorni fa. Tra quante persone eravate in lizza? 600 progetti europei. 600 progetti europei. Lui, Alessio Ciacci, è stato, ha cominciato la sua carriera di amministratore come assessore nel comune di Capannori. E qua già si comincia. E qua già diciamo tutto. Capannori, noi ce ne siamo tanto occupati, per noi, insomma, sei un figlio di Ercolini per noi. Sì, sì. Senza offese per i genitori naturali, no, assolutamente, ci mancherebbe. Due parole su questo, se vuoi dire, di quell'esperienza, poi andiamo all'oggi. Però Alessio, tu hai iniziato come assessore a Capannori. Sì. Proprio in quegli anni, parliamo appunto di poco meno di 10 anni fa, sì. Parlare di rifiuti zero era veramente considerato un'utopia, una cosa da pazzi. Sì, a me appunto in quegli anni piaceva molto ricordare una citazione del nostro grande Fellini, quando diceva che l'unico vero realista è il visionario, e noi abbiamo su questo avuto ragione, perché appunto quella visione che abbiamo avuto, che non abbiamo avuto i primi nel mondo, ma l'abbiamo avuta appunto insieme a esperienze come San Francisco a livello internazionale, si sta sempre più concretizzando in realtà, che sempre più esperienze amministrative di tutto il mondo, di piccole, medie, grandi città stanno seguendo come un dato ormai obbligatorio per costruire sostenibilità, che è un elemento obbligatorio per costruire convivenza, perché ormai certo. Tutto il mondo ci dicono che perché, se non andiamo sì. verso la sostenibilità rischiamo di compromettere le future generazioni. Poi tu hai fatto delle altre cose, sei diventato responsabile, sei andato a gestire la questione dei rifiuti anche in Sicilia, poi adesso sei amministratore di altre aziende, ci arriviamo. Però questa cosa di zero rifiuti è importante dirlo, perché tutto a Capannori nasceva per non far nascere un inceneritore, cioè c'era stata una battaglia e sembrava che fossero i soliti ambientalisti oppositori che non vogliono i rifiuti a casa loro. Però bisogna dirlo, perché oggi Capannori, e poi il motivo anche del premio, la tariffa puntuale e il zero rifiuti, che parte tutto di lì, è il premio che ha ricevuto in Europa, praticamente siete riusciti a rendere qualunque ipotesi di inceneritore inutile o quasi, perché oggi qual è il livello di raccolta differenziata dei rifiuti che c'è in questa cittadina toscana? Ecco, l'esperienza di Capannori ormai ci ha portato vicini al 90%, ma l'esperienza ha contagiato tanti territori, per cui oggi diciamo la provincia di Lucca, che fa quasi 400.000 abitanti, ormai ha superato il 65%, è l'unica provincia in Toscana ma ci sono province appunto in Italia come quella di Treviso che ormai superano l'85%. È importante dirlo e ricordarlo, Alessio, perché tutti dicono beh, ma zero rifiuti, farà meno gli inceneritori, come si fa, dove li mettete i rifiuti, volete soltanto mandarli da un'altra parte, invece no, voi siete la dimostrazione che del riciclo crea molta più occupazione ed economia locale piuttosto che la filiera dello smaltimento, che invece appunto allontana le risorse del territorio verso appunto grandi aziende che gestiscono questi impianti. Questo è il cambio di paradigma che è assolutamente vincente ed è anzi geniale nel suo pensiero, cioè io ho meno rifiuti, do lavoro a più persone, è il solito discorso che diciamo dove vincono tutti. Quindi assolutamente sì, da un metodo, quello dello smaltimento che è decisamente capital intensive, a uno che è quello del riciclo e della raccolta differenziata che è decisamente labor intensive, certo, senza aumenti di costi. E se ne sono accorti anche a Vienna, dove hai vinto questo premio. A parte che a me, mi piace molto che esista un premio che si chiama Innovation in Politics, cioè mi sembra un premio per i politici che invece di solito vengono massacrati, spesso giustamente, però mi sembra una buona idea per far tornare la voglia ai politici di essere dei buoni amministratori. Cioè ricordiamo che il politico in realtà potrebbe essere un lavoro bellissimo che dovrebbe occuparsi di buona amministrazione, non di rubare i soldi per se stesso, al servizio della comunità. Esatto. È proprio quello che in Italia abbiamo iniziato a fare appunto da 15 anni con l'Associazione Comuni Virtuosi, allo stesso a livello europeo c'è stata questa iniziativa che è nata proprio quest'anno per proprio costruire un'idea di valorizzazione della buona politica, proprio perché in un momento in cui sempre più la politica è in crisi, aumentano le paure, aumentano i populismi, aumenta la violenza, c'è la necessità concreta di costruire speranza, partecipazione, integrazione attraverso, certo, buoni esempi che sul territorio costruiscono buona politica. Senti, giusto, Alessio, ma volendo sintetizzare, no, in poche parole, cosa ha convinto i giudici di questo premio? Naturalmente il percorso che avete fatto a Capannori, il tuo in particolare, è un percorso lungo, però Per cosa avete vinto? Esatto. Beh, io ecco, per sintetizzare e prendere appunto gli spunti principali, direi che forse l'idea che più ha stupito in Europa e di cui appunto sempre più sta crescendo l'interesse è quella di ormai far capire a tutti che ormai siamo abituati, è giusto, è normale che sia così, che se consumiamo più acqua paghiamo di più, se consumiamo più energia paghiamo di più, se consumiamo più gas paghiamo di più, è importante che sia così, altrimenti si genererebbero sprechi insostenibili. E perché invece sui rifiuti dobbiamo essere abituati a pagare una tassa indipendentemente da quello che facciamo? Questo, diciamo, è un messaggio. Parole sante. Però ricordiamo che non sono ancora molti in Italia ad avere la tariffa puntuale, perché cioè credo se io consegno meno spazzatura pagherò meno, giusto? Assolutamente sì, così deve essere. È questo che spinge le famiglie a dare quel in più rispetto appunto a tanti progetti di raccolta differenziata che magari non riescono a raggiungere questi livelli. È molto vero, perché vedono ripagati i propri sforzi. Uno dei grossi problemi è sempre questo, che infatti i contrari sono quelli che dicono ma cosa sto qua a dividere tutto, che tanto dopo in discarica rimettono tutto insieme. Invece non è così, è un pensiero mio per quello. Se anche magari in alcuni posti questo avviene, è un percorso che poi migliorerà, può anche essere che una percentuale di quelli che noi dividiamo viene rimessa insieme, ma non è assolutamente un motivo sufficiente per decidere di non fare la differenziata a casa propria. Assolutamente no, sarebbe come fare del male ai propri figli. Esatto. A mio giudizio. Sei più bravo a trovare degli esempi, devo dire. Infatti a Vienna a ritirare il premio, giustamente ci vai tu. No, ma il bello è stato perché veramente questo è stato simpatico. Vienna, da chi invece sostiene che il modello dell'inceneritore è l'unico indiscusso per la gestione dei rifiuti, viene sempre citato Vienna perché c'è l'inceneritore vicino alla città. Andare a ritirare questo premio a Vienna ti ha dato particolare soddisfazione. Certo, vai a spegnere l'inceneritore in realtà a Vienna. Scusami, sei già andato perché la consegna è stata il 7 dicembre. E devo dire che c'era anche il sindaco di Vienna, c'erano le autorità viennesi, anche loro hanno avuto veramente grande interesse su questo percorso. Complimenti Alessio Ciacci from Capannori to Vienna, ma direi al mondo, perché questa filosofia zero rifiuti, che tra l'altro, come ci ricorda sempre il nostro amico Rossano Ercolini, non è una strategia che nasce nei circoli amministrativi ambientalisti anarchici rivoluzionari, ma nasce la Toyota, perché vuol dire zero rifiuti, vuol dire prima di tutto risparmio, no? Non butti via nulla, e quindi è una strategia amica anche dell'economia soprattutto. 800 24 00 24. Abbiamo detto che cerchiamo un personaggio, il secondo oggi della settimana, che ha avuto due fasi. Non so se è arrivata qualche telefonata, mi dico no, allora aggiungo un indizio, perché altrimenti quest'ultimo quarto d'ora non c'è gusto. Diciamo che questo personaggio, lo vogliamo dire, ha vinto parecchie scommesse, va. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, abbiamo anche un po' di risposte sui social. Ricordiamo i nostri canali social: si può fare trattino radio 24 la pagina Facebook, chiocciola si può fare 24 su Twitter, poi sono anche i nostri account, chiocciola Ale Maurizi e chiocciola Carlo Gabardini. Ci scrive Giorgio: il modo migliore è fare la spesa giusta, acquistando solo il necessario. In 5 anni non ho mai buttato nulla. Caspita, Giorgio. Ma bravo. chiamaci Giorgio, che ci voglio a casa, Giorgio, quando vado a fare la spesa. Iniziamo a sentirlo, a conoscerci. E poi esatto, e poi lo inviteremo, perché è sicuramente giustissima la cosa che dici, però bisogna essere molto bravi. Io soprattutto con le cose fresche spesso è molto difficile. Io compro dei broccoli e poi mi dimentico di farli. Allora, abbiamo ci chiedono di all'SMS 3492386666 di ricordare il nome dell'app Last Minute Sotto Casa. Si chiama l'app di Francesco Ardito, andate, scaricatela, perché è presente in tutte le città italiane, maggiormente in alcune città tra cui Torino. È un altro SMS che ci arriva, non so se sia un complottista o un realista, che dice: il kebab vogliono eliminarlo perché minaccia la pizza. Domenico da Campobasso. No, attaccato. Ehi fu, e invece niente. Allora, Alberto da Bergamo. Sì, pronto? Vai. Prego. Ecco, volevo rispondere al quesito. Sì, personaggio, chi è? Secondo me è Silvio Berlusconi. Perché? Perché ha avuto una fase in cui è stato al governo alternativamente con Prodi. Sì. Poi c'è stato il colpo di Stato. Il colpo di Stato, quindi la terza fase sarebbe colpo di Stato. Però è la terza fase, perché c'è quando ha governato alternativamente con Prodi il colpo di Stato, e adesso sta rinascendo. Beh, è la quarta, però, perché prima è stato lui è stato un imprenditore, poi dopo è stato un politico, giusto, poi c'è stato il colpo di Stato. Per farla breve, non era lui. Per farla breve, bravo. Però siamo contenti in 40 secondi di aver ricordato la biografia di Silvio Berlusconi. Allora, auto diesel, guidatori di auto diesel, produttori di macchine diesel, è inutile girarci intorno. Io ho la macchina diesel, figurati, le ore contate, perché sono campagne che sono partite in tutta Europa, perché il diesel inquina più di quanto pensavamo in passato. E vedi soprattutto Londra, vedi la Germania, butta fuori biossido di azoto, giusto? Vedi la Francia, e adesso vedi anche l'Italia, si sta muovendo qualcosa. E noi ne vogliamo parlare con chi? Con Chiara Lorenzin, che è avvocato ma è soprattutto membro di Cittadini per l'Aria, un'associazione. Buongiorno Chiara. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Che sì, buongiorno. Lo capite dal nome, Cittadini per l'Aria, un'aria pulita possibilmente. Abbiamo parlato molto anche del ricorso fatto insieme a Client Earth, la ONG di Londra, che sta dando una mano a tante associazioni in Lombardia. Si sta discutendo un nuovo piano per le città. Però qui vogliamo presentare il più grande monitoraggio, forse partecipato, della qualità dell'aria che voi state lanciando. Di che si tratta, Chiara? Sì, buongiorno. Siete stati bravissimi a sintetizzare lo scopo di questo monitoraggio, di questa iniziativa, cioè andare capillarmente in tutta la città a verificare qual è il livello dell'inquinante più dannoso che emettono i motori diesel, cioè il biossido di azoto. Ogni cittadino può con noi prendere un campionatore e collocarlo in un luogo anche vicino a casa e verificare vicino a casa sua che cosa accade. Per un mese il campionatore sarà esposto al traffico veicolare, poi verrà ritirato e inviato al laboratorio, poi verranno rielaborati i dati dai nostri ricercatori di riferimento, che sono bravissimi, e otterremo così una mappa che ci darà evidenza di come nella città, e queste città saranno Milano, Roma e Brescia, e anche in parte Bologna, come in queste città è distribuito questo inquinante. Sarà una mappa allarmante, o sbaglio? Sì, temo. È una mappa allarmante. Chissà sì, quanti vorranno cambiare casa dopo aver visto i dati, perché questo potrebbe anche essere, ma insomma. No, bisogna cambiare l'aria, no? Cambiare casa. Giusto. Bisogna cambiare l'aria, infatti. Anche perché secondo me se cambi casa cambia poco l'aria, perché ho come l'impressione che cioè, possa cambiare da zona a zona, ma insomma il risultato non sia poi tanto diverso. Poi noi camminiamo in città, quindi. Quindi ci muoviamo, eccetera. Come si fa a partecipare? Dacci un sito, un account, un contatto che dobbiamo chiudere, Chiara. Allora, cittadiniperlaria.org, è molto semplice il percorso, si può partecipare, naturalmente il nostro referente deve essere uno, però si può partecipare collettivamente, anzi è una cosa bellissima se partecipano le classi delle scuole. Meglio anche le scuole, dobbiamo però chiudere, Chiara, grazie. C'è un ascoltatore che ha indovinato il personaggio della settimana, ma non facciamo in tempo a mandarlo in onda, verrà comunque contattato e avrà anche lui i biglietti. Perfetto, credo, eh? E lasci tutti così, lasci tutti sì. Così? Fabrizio Frizzi? Giusto, va bene. L'applauso sono fatti da sole. Complimenti a Donata che ha indovinato. Ci sentiamo sabato prossimo con Si può